إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. O voi che credete, quando incontrerete i miscredenti in ordine di battaglia, non volgete loro le spalle. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ Chi in quel giorno volgerà loro le spalle, eccetto il caso di stratagemma per meglio combattere o per raggiungere un altro gruppo, incorrerà nella collera di Allah e il suo rifugio sarà l'inferno. Qual triste rifugio! أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Quando tiravi, non eri tu che tiravi, ma era Allah che tirava, per provare i credenti con bella prova. In verità Allah tutto ascolta e conosce. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Ecco quello che avvenne. Allah vanificò l'astuzia dei miscredenti. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Se è la vittoria che volevate, ebbene, la vittoria vi è giunta. Se desisterete, sarà meglio per voi. Se invece ritornerete, noi ritorneremo. Le vostre truppe, quand'anche fossero numerose, non potranno proteggervi. In verità Allah è con i credenti. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. O voi che credete, obbedite ad Allah e al suo messaggero e non volgetegli le spalle dopo che avete ascoltato. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Non siate come quelli che dicono noi ascoltiamo, quando invece non ascoltano affatto. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. In verità,